Sempre mi lamento, non alzo mai un dito, ma mentre lo uso per grattarmi il mento, sdraiato sul letto disfatto, scriverei l'elenco infinito delle cose di cui lamentarmi. Ma non mi va, no, non mi va. Sono così inerte che quasi rasento la morte. Lei m'ha visto, m'ha schifato, e neanche oggi mi prenderà. Momento, lamento, non laverò i piatti, non voterò, non sciacquerò, e quando faranno il governo, sicuro e fiero mi lamenterò. Momento, lamento, vien dopo un momento. Momento, una strana allegria di cui non rintraccio il senso. Tranquillo sul metro arriva un rompicoglioni, gli spicci non glieli do, che vada altrove a fare canzoni. E non mi importa niente se sta dicendo cosa interessante, perché se io scriverebbi canzoni, le scriveresti meglio di lui. Cala il sole sulla città, ci si lamenta del traffico odiato, del dio strappico che invece di vederci lungo ci ha visto sbagliato. Si lamenta l'impiegato, lo spazzino, il cantante e l'avvocato, il becchino, il medio esercente, il magistrato, la Madonna, il Papa, pure il presidente. Siamo il coro più imponente e potente dell'umanità. Va bene lamentarsi, dipende poi uno che se ne fa. Momento, lamento, non laverò i piatti, non voterò, non sciacquerò, e quando faranno il governo, sicuro e fiero mi lamenterò. Momento, lamento, vien dopo un momento. Momento, una strana allegria di cui non rintraccio il senso. Non lo voglio scremato parzialmente, ma lo voglio scremato interamente. E la verità è che non sarò mai soddisfatto sinceramente. Mi cambi la porchetta, mi chiamo Giordano di Vetta, e per bagnare, perché papà quest'ora la pretendo perfetta. Ammazza quanto piove, è pure il 4 febbraio, ma io il sole che spacca le pietre lo pretendo pure a gennaio, pure a gennaio. Mi scusi, c'è un Madonna, quanto costa? Con quello che c'ho in tasca me posso permettere magari.